Buongiorno. Buongiorno. Allora, vi presentate, chi siete voi, la classe? Quarta A. Ciao. Chiediamo chi è il signore che ci ospita qui. Prima di tutto grazie di averci ospitato. E buon pomeriggio a voi, grazie della visita. Ti puoi presentare? Allora, sono Masa Fabrizio e faccio il contadino da circa 32 anni. Ho iniziato negli anni 90, dopo ho finito la scuola. E all'inizio avevo fatto il percorso elettricista a Lippia e dopo ho proseguito col mestiere del papà e del nonno. E cosa ti ha ispirato a fare questo lavoro? Allora, soprattutto l'aspirazione che ho avuto è di continuare l'attività che aveva iniziato il mio nonno e il mio papà, per dopo avere tutte le soddisfazioni che hai dalla terra e raccogliere i frutti col tuo sudore. Ma se un giorno una parte del vigneto? Sì. Tipo per un animale o una tempesta si inizia a rompere, cosa vorresti fare? Praticamente devi, diciamo, allora su questa domanda qua è molto faticosa, perché devi riniziare a rimettere la barbatella nuova per ripartire da zero con gli eventi della grandine o qualche avversità di funghi o malattie che ci sono attualmente. Che ortaggi coltivi? Allora, gli ortaggi, ho un piccolo orto in cui facciamo l'insalata e le cose per casa, e dopo soprattutto la mia azienda è basata su circa 8 ettari di vigneto, che parti dalle uve bianche alle uve nere. Allora, l'attività durante l'anno, diciamo, iniziamo dall'inverno, autunno-inverno, in cui iniziamo a scegliere, a fare la potatura, dove vai a fare il rinnovo di tralci, togli il vecchio e lasci i tralci buoni per arrivare al frutto dell'anno prossimo. Questo qua è una cosa che è molto impegnativa, perché devi osservarli, guardarli, e soprattutto per il discorso delle gemme, perché contiamo che le gemme su un ceppo lasciamo 21 gemme per avere dopo la qualità dell'uva migliore. Sapete cos'è una gemma? No. Magari sì, gliela tipo... faccio vedere. Dopo le vediamo. Dopo le vediamo. E poi in primavera cosa succede? Allora, finita la potatura, iniziamo la legatura, che la finiamo in questo periodo qua, marzo-aprile. Dopodiché ci sono una quindicina, 20 giorni di tempo per fare dei mestieretti, in cui vai magari a rimettere a dimora le viti che sono scadenti o che sono morte durante l'inverno. Andiamo a vederlo questo lavoro, che così forse è più chiaro. Devi stare ultimo. Che piccole serre che fa anche Fabrizio. Sì, questo è un esperimento, questo. Che bello! Questo qua è un esperimento. Prego, prego, entrate pure. Allora, qua questo inverno abbiamo tolto tutti i tralci in più, in cui dopo vengono macinati nel terreno, e abbiamo lasciato i tralci nuovi, in cui dopo verrà fatto vengono fuori tutte le gemme e viene il frutto. Qua vediamo delle gemme che si stanno aprendo. Questa si sta aprendo, qua ce n'è una semichiusa, che adesso, se fa un po' di pioggia e col bel tempo, iniziano a germogliare. Dopodiché, allora, dicevo che quando questo periodo qua andiamo a togliere, tipo qua è stata tolta una vite, scusa, qua vedi, qua c'è una vite morta, in cui verrà tolta e rimessa la barbatella nuova, che come quelle piccoline, e li mettiamo davanti in una protezione per proteggerla dagli animali o anche per vederla quando fai le lavorazioni del terreno. In questo periodo qua anche facciamo la lavorazione del terreno sulla fila, perché non andiamo più a usare diserbanti per il suolo. Com'è cambiato negli anni l'utilizzo dei veleni e dei trattamenti delle piante? Allora, su questo discorso qua è cambiato parecchio, perché si faceva dei trattamenti molto pesanti con dei prodotti un po' tossici e nocivi per le persone, gli animali e i fiumi, quelle cose lì, e adesso si sta puntando su un'attività biologica, sul bio, che è molto difficoltoso, perché se la natta è buona fai anche minori trattamenti ai corrame, e se ci sono piogge frequenti devi entrare in campo diverse volte, magari anche due o tre volte a settimana. Prima in classe parlavamo di storie, no? Tanti mi avete raccontato le storie dei nonni e dei genitori che coltivano. E a sto punto ti vuoi aggiungere anche tu, Fabrizio, su... Hai qualche storia da raccontare di tuo nonno o di tuo papà legato al coltivare? Allora, sul coltivare, diciamo che una volta hanno iniziato, diciamo, le storie che mi raccontavano, andare col cavallo a fare le varie lavorazioni negli anni 70, 60, 70. Dopodiché sono subentrati i primi trattori, diciamo, in cui facilitavano diverse operazioni, in cui adesso, ritornando indietro agli anni 70, diciamo, non riusciresti a avere tanti ettari di campagna come che la vedo io e i ricordi che ho dal nonno e dal papà. E dopo sono cambiate anche tante tipologie di lavorazione dei terreni, anche sulla vite, quelle cose lì. Quante ore ti occupi al giorno per questo lavoro? Allora, mediamente faccio 9 ore al giorno, anche 10, conforme ai periodi. Adesso sono sulle 7-8 ore al giorno, però andando avanti, in cui la vegetazione inizia a germogliare, quelle cose lì, e anche 10-12 ore, conforme ai lavori in campo che ci sono da fare. Quando raccogli l'uva, di solito quanti chili riesci a raggiungere? Allora, la raccolta si basa in base ai metri quadri del terreno. Diciamo che noi abbiamo un disciplinare in cui dobbiamo rispettare un quintallaggio, diciamo ogni 10.000 metri, che è un ettaro, e 10.000 metri quadrati equivale a un ettaro di terreno. Abbiamo la quantità dei 150 quintali a ettaro, però dopo magari per il tempo, la grandine o qualcosa che durante l'anno va storto qualcosa, magari produci anche meno. Perché magari se, come adesso, che è un bel tempo, mite, arriva e escono le gemme, arriva una gelata in cui il termometro va sotto lo zero, magari perdi anche il 50% della produzione. Quindi avete visto, ci vuole tanta conoscenza. Quanto è servita la conoscenza dei tuoi parenti sul fatto del coltivare? Molto, molto, perché allora quando fai una scuola ti insegnano le basi, oppure da internet prendi spunti, però devi avere anche un po' di storia vecchia da dire dai nonni o papà, che ti insegnano, perché ogni vigneto o ogni località ha la sua... perché, diciamo, il perché. E magari qua è un vigneto in cui magari è comodo tenerlo, magari in collina hai altre problematiche in cui devi lasciare magari un traccio in più, qualche gemma in più, quelle cose lì devi conoscerle molto bene per arrivare a fare un buon raccolto, che dopo anche il raccolto dipende praticamente dalla schiacciatura delle gemme a maggio-giugno. Togli tutti i poloni e la doppia gemma e lasci le gemme ben formate per avere questo equilibrio anche della vite. Ho visto che hai un inizio di orto, ce lo fai vedere, che ci spieghi come funziona. Allora, in questo momento l'orto si sembra un po' tutto fermo, vero? Questo è un orto fermo perché praticamente quest'inverno l'ho lasciato così, a riposare il terreno. Adesso, appena che iniziano le prime piogge, metto del lettame essiccato e dopodiché vado a fare una vangatura e preparare il terreno per mettere l'insalata, pomodoro, un po' di melanzane, un piccolo orto per uso familiare, questo è. Tu coltivi anche fiori? No, fiori no. La mamma non coltiva fiori? Sì, beh, qui attorno alla casa qualche fiorellino lì, però è un altro settore un po' più particolare e devi dedicare anche lì del tempo, come l'orto, eh. Questa serve per girare il terreno, si chiama vanga. Dopo si può usare anche la forca dritta, ma io mi trovo più comodo a usare la vanga perché lo giri meglio il terreno. La forca deve essere un po' più, è un po' più scomoda perché, aspetta, vado a prenderla. Sì, questa. Bella. E dopo questa è una zappa con dei denti in cui adesso magari prima di fare la vangatura do una zappata leggera in cui tolgo tutte le zolle dell'erba. Comunque questi sono gli attrezzi principali che uso nell'orto. Il rastrello serve soprattutto per mettere a livello il terreno. Che una volta, adesso anche le viti con la lavorazione così interfila, una volta si faceva col piovetto a mano, manuale, e con la zappa toglievi le zolle con la zappa, adesso lo fai tutto meccanicamente, qui le macchine dei trattori. Cosa ci racconti delle galline? Come funziona allevare galline? No, allora le galline sono comodissime da allevare perché praticamente io le prendo già formate, non parto dal pulcino, dall'incubazione, quelle cose lì. Le galline praticamente è una cosa più semplice da avere perché così utilizzi i scarti del tuo cibo, del pranzo, e le diamo. E sei uno dei pochi in paese che tiene il gallo, o sbaglio? Sì. Allora, il gallo precedente è durato 12 anni. Era un facsimile così. Questo è uguale. È già 4-5 anni che c'è questo. E il gallo è quello che comanda tutto. Perché un mese fa sono andato a acquistare delle galline nuove in cui ci sono state delle difficoltà i primi giorni a inserirle. Dopodiché si sono abituati anche i vecchi con i giovani. E ci sono degli orari in cui canta il gallo? La mattina soprattutto, la mattina dalle 6:30 alle 7 canta. I vicini cosa dicono? Rompe. I cugini hanno un gallo, ne avevano due, uno è morto di vecchiaia e adesso ne hanno comprato un altro che è molto simile a questo. Sì, prego. Anche una volta mia nonna aveva tipo le galline, il gallo e tante cose varie, c'aveva anche l'orto.